Cari neoascoltatori di Radio X Network, qui è la redazione. Vi avvisiamo che a breve saranno disponibili le prime puntate di Pier Stop. Inoltre vi avvisiamo che a partire dalla seconda o terza puntata inseriremo alla fine delle trasmissioni uno stacchetto pubblicitario di 5-10 secondi. Ci scusiamo per il disagio che abbiamo cercato di ridurre mettendo alla fine lo stacco pubblicitario, ma è il modo meno dispendioso per voi ascoltatori di sostenerci. La redazione ringrazia e vi augura un buon ascolto.